24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, sono le 6:33 minuti. Siamo pronti anche oggi con il nostro 24 mattino. Siamo in diretta fino alle 9. Lo schieramento è il solito: Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè alla regia e il consiglio di tutti e per tutti e per sempre. But please relax. Del nostro presidente del consiglio, Dai, siamo pronti ad aprire il nostro bar qui a Radio 24 con lei. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè volentieri a tutti quanti, chissà se la bella Nicole ha chiamato anche lei Spinaus, il ragioniere Spinelli, il ragioniere di Silvio Berlusconi che è stato sequestrato e tutti i giornali più o meno aprono su questo, paginate e paginate. Date qualche titolo: il Corriere, il giallo del cassiere di Berlusconi, Repubblica, si sono telefonati, lo stesso titolo, il giallo del cassiere di Berlusconi. Olgettina Gate, ho visto un titolo di Pubblico, Berlusconi, il giallo del cassiere, Messaggero, il cavaliere si tinge di giallo, questo l'Unità. Poi c'era il Fatto Quotidiano, l'ho perso qui, ma da qualche parte c'è. Comunque il Secolo, ricatto a Berlusconi, è giallo. Il Giornale, chi c'è dietro il sequestro del cassiere di Berlusconi? Solo Libero si distingue un po', come difendersi dal redditometro. Ne saluto il vice direttore, tra l'altro, Massimo De Manzoni, ben ritrovato, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. E saluto anche Alessandro Giglioli, Piovono Rane, eccoci, buongiorno Alessandro. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ma questo qua, però dobbiamo parlare di questo giallo del sequestro, perché non si sa niente, nel senso si sa quello che c'è sui giornali, ma già ci sono dei giornali che mettono dei seri dubbi su questo sequestro. Indovinate chi? Facciamo un quiz. Massimo, secondo te chi sono i giornali che mettono in dubbio la veridicità di questo sequestro di Spinaus, il ragioniere Spinelli? Immagino. Adesso io non li ho letti tutti, qualcuno. Uno Repubblica poi, metterà in dubbio. Poi il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano. Sarà lì che ci rimesta. E c'è Pubblico anche pure. Pubblico. Come ci rimesta? No, beh, ci sono delle cose che effettivamente... Ma come no? Sono un po' strane. Per esempio questo sequestro che è del 15 ottobre, si è venuto a sapere solo adesso. La domanda che tutti si fanno è: ma come finisce il sequestro? Una notte di terrore, nella quale però il ragionier Spinelli dice anche a un certo punto uno dei rapitori mi ha rimboccato le coperte durante la notte, abbiamo pregato col rosario, eccetera. Sì, la moglie. Però perché è finito tutto questo sequestro? Uno cosa fa? Alza il telefono e chiama chi? Non so, Giglioli, chi chiama? Ho finito il sequestro? Ma io ho una stazione dei carabinieri qua vicino, chiamerei loro, sono anche bravi ragazzi, amici miei. Invece Spinelli come prima cosa fa? Chiama Ghedini e Berlusconi. È da lì che nasce un po' tutto il giallo, dice, perché chiama Ghedini e Berlusconi? Uno viene sequestrato, come prima cosa chiama i carabinieri, le forze dell'ordine, la polizia. O no, Massimo De Manzoni, è questo che nasce un po' tutto... Sì, sì. È verissimo, ci sono molti aspetti oscuri, però lui chiama Berlusconi perché è ancora sotto la minaccia dei rapitori in quel momento. La prima telefonata la fa con i rapitori ancora lì, tanto è vero che racconta un sacco di balle a Berlusconi. Sì, quello sì, cioè con i rapitori racconta lì... anche di aver visto il filmato che poi non ha visto perché la chiavetta non funzionava, eccetera, eccetera. No, ma quando finisce tutto, cioè quando poi se ne vanno via, eccetera, i rapitori... Se ne vanno via, va di nuovo, va da Berlusconi, parla con lui, si consultano, eccetera, eccetera. È vero che dopo la fine... denuncia con un giorno di ritardo, è pieno di cose strane. Ovviamente qui in questo pieno di cose strane alcuni giornali subito, come Repubblica, fa già come se fossero le 10 domande, i 10 punti oscuri del sequestro di Spinelli. Vogliamo sentire la voce di Spinelli, perché è una persona che è sempre stata un po' nell'ombra, no? È diventata famosa perché è diventato colui era il pagatore, quello a cui si rivolgevano le olgettine, tanto che qualcuno oggi ha scritto una persona tutta mia, tutta casa, chiesa e olgettine, insomma, il ragioniere Spinelli. Sentiamo quando è andato al Tribunale di Milano a deporre e Nino Luca del Corriere.it lo inseguiva proprio, cercava di strappargli qualche parola, sentite. Ragioniere, di questa vicenda lei cosa ne pensa? Tutti questi soldi e tutte queste ragazze? Io non c'entro niente, Si chiedeva il dovere e basta. Si chiedeva come mai venivano pagate tutte queste ragazze. Si chiedeva come mai. Adesso ho appena finito l'interrogatorio di 2 ore, per favore. Le ha chiesto quanto guadagna, no? Le hanno chiesto quanto guadagna. Insomma. 13.000 euro lordi al mese? Sapranno così. Mi... 13.000? Lo conferma? Quanti soldi freschi ha portato in 2 anni a Berlusconi ad Arcole con questo sistema della monetizzazione? Oh, beh, adesso scusate. 12 milioni? Queste cose non milioni. Le dico neanche sotto tortura, le dico in tribunale. Ma com'è che lei lavora con Berlusconi? Come l'ha assunta Berlusconi, si ricorda? Sì, non molla, no, cronista? Lui non dice una parola, ma non molla. A un certo punto tira fuori un telefonino, sentite, dice, e dice a un interlocutore: sono circondato. Ho preso la Lodigiani e sono passato alla vecchia ed il nuovo servizio. E quindi lavora con Berlusconi dal 78 praticamente? Sì, direttamente o indirettamente. Ma lei un consiglio a Berlusconi non gliel'ha mai dato? Silvio, tutti questi soldi? Non tocca a me, si mancherebbe. Quindi... È un esecutore, sì, un passabuste, sì, direi. Ecco, sì, sono circondato. Eccolo qui, parla con qualcuno. Giglioli, il vecchio metodo del telefonino, a un certo punto, quando uno finge una telefonata per tirarsi via i giornalisti, dice: sono circondato qui dai giornalisti. No? Esiste anche un'applicazione che ti consente di ricevere una falsa telefonata. Addirittura, con, cioè, ecco, che ti suona il telefonino e dici: sono circondato. Comunque noto con piacere che finalmente Berlusconi, dopo aver occupato per anni le cronache politiche, quelle sportive e quelle giudiziarie, è finito nella pagina che gli competono, cioè la cronaca nera, insomma, siamo in piena cronaca nera, malavita, brutta gente. Giglioli è così, si sveglia, mi vuol mettere nei guai con queste frasi. Infatti io voglio guardare. De Manzoni, di subito qualcosa a questo comunista. Figura come vittima per il momento. Questo comunista di Giglioli che subito vuol spargere, no, Berlusconi. Figura come vittima di un tentativo di ricatto, dai contorni un po' strani, non c'è dubbio, ma anche da film, perché cioè, ci sono dei particolari fantastici. Le scarpette rosso-nere vogliamo parlarne? Sì, sì, di uno dei sequestratori. Beccato. Le scarpette rosso-nere sono una cosa meravigliosa, cioè letteraria addirittura. Sì, sì, sì. Beccato. Dopo le scoprono perché questo va a vedersi la partita del Milan con la Fiorentina, che sì. Perde pure. Perde pure, sì, non me lo dire. Esatto. No, non me lo dire. Comunque, al netto di ogni cospirazionismo, la cosa interessante, come dicevi giustamente tu, Alessandro, sono le 36 ore, un giorno e mezzo che passa dalla fine del sequestro al momento della denuncia. E il fatto che quel giorno lì Berlusconi abbia, come emerso poi con una serie di riscontri, saltato tutti gli appuntamenti. Compreso uno con Monti, cioè sì. stiamo parlando di cose piuttosto rilevanti. Non è andato a Bucarest, non è andato... Il principale partito rappresentato nel Parlamento italiano che non va a un incontro con il Presidente del Consiglio che sostiene in Parlamento perché è ricattato o perché comunque è immerso in trattative con la malavita. La versione ufficiale era perché aveva l'influenza, questa è stata la versione. Ma sentiamo proprio Ghedini su questo, perché Ghedini respinge le accuse di ricatto a Berlusconi dicendo è una vittima, e poi dice questa cosa alla fine proprio: no, ma l'abbiamo denunciato praticamente subito, immediatamente, lo stesso giorno, sentite. Assolutamente non avevo in mano nulla. Avvocato, visto che voi avete fatto la denuncia. Ma non volevano ricattare, scusi, non volevano ricattare Berlusconi, volevano, dicevano che davano qualcosa a Berlusconi in cambio del cambio di denaro. Quindi in realtà, 35.000 euro. In realtà 35 milioni. Milioni. In realtà si erano sequestrati, povero Ragioniere Spinelli, e era la scusa per fargli pagare il denaro. Quindi non c'era un ricatto nei confronti. Quindi cosa fossero tutte le violazioni di Spinelli sotto il sì, poverino, sì, ha detto un po' di cose, ha detto che c'erano dei filmati, confini, sta già uscendo tutto. Scusi, diceva prima, avvocato, quanto tempo dopo avete fatto denuncia? Solo questo? Sostanzialmente immediatamente. Cioè, la mattina dopo, insomma? No, nella giornata stessa. Nella giornata stessa, la mattina no. No, c'è da dire che Massimo De Manzoni, c'è anche questa storia del video che ritrarrebbe Fini, questo dicevano i rapitori, abbiamo un video con Fini che parla con alcuni giudici per trovare il modo per ricattare Berlusconi, siamo veramente al fantaromanzo. Fini l'ha già definito la barzelletta che non fa neanche ridere, ma è sempre una barzelletta. C'è un precedente specifico che gli dava una patina di credibilità, però il fuori onda con Trifuoggi, uno poteva pensare che ci fosse anche un altro fuori onda con qualche altro giudice. Trifuoggi era un magistrato di Pescara, credo, pubblico procuratore capo della procura di Pescara, col quale Fini diceva adesso questa storia del pentito spatuto sarà una bomba atomica, adesso si vedrà. Si informava, ne parlavano insieme, per cui ti ripeto, in una situazione così surreale non c'è niente che sia completamente privo di credibilità apparentemente, per cui poteva anche essere credibile questo filmato, che però poi pare non sia mai saltato fuori. Sì, ma tra l'altro, ma io allo stato allora, non c'è. Dio ce ne scampi ora delle puntate successive. Guardate che anche il giornale la mette ovviamente dall'altra parte, non può essere malavita, c'è un disegno. Cioè adesso partiranno tutta una serie di letture ovviamente opposte di possibili complotti, di veramente da film di Dan Brown. Che ci dobbiamo aspettare, Giglioli? Io veramente, cioè giorni e giorni così parlare di questa cosa, sinceramente non è a fo, lo dico dobbiamo aspettare, lo dico di liberarci subito di tutto questo, spero, di liberarci di una politica che comunque è ricattabile. Non parlo solo di Berlusconi, una politica ricattabile, una politica mescolata coi soldi dei Maruccio, vogliamo parlare anche del come no, sì, certo. Cioè tutto quello che va a giocare alle slot machine, il capo delle proprietario delle slot machine è un biscazziere, nonché anche lui in politica. Io vorrei veramente, se possibile, che da questo voto, a destra come a sinistra, in centro e altrove, ci si liberasse di questi politici mescolati con la malavita o ricattabili dalla malavita o comunque in trattative con la malavita. Sperare di voltare pagina, ma quante volte si è detto in Italia, quante volte ci sarà? Intanto arriva il Redditest, siete pronti italiani a tenere via tutti gli scontrini, fatture, perché è un sistema per cercare di capire intanto se siete congrui con il vostro stile di vita, con quello che fate. Oggi Libero, visto che abbiamo qui Massimo De Manzoni, tuona con il direttore Libero, Belpietro, che dice io tengo tutto ma ci ingolferemo le scrivanie di scontrini, è l'ennesima strozzatura di questo fisco. Ciao, sono Roberto da Roma. Oggi andrò dal commercialista per l'ennesima volta a dire che non ho soldi per pagare le tasse. D'altronde famiglia, disoccupati, figli, tutti quanti, è un disastro. Ad Amato, che piange per gli esodati politici, propongo di farle assumere per 5 anni dalla Fornere come tigelliniani porgenti il lacrimatoio per raccogliere le santissime lacrime. Salute e bene. Come dice il mitico Forchielli, siamo feccia. Praticamente abbiamo un dittatore, è un dittatore degli anni 2000, abbiamo Monti, ma io penso che una dittatura così, nemmeno al tempo dei carbonari, almeno quelli facevano i moti rivoluzionari, si sfogavano. Io devo andare a fare le primarie per che cosa? Per chi? Per quando? Per quanti soldi? Ho pagato 5 euro per fare le elezioni, di rimborso. 2 anni fa alla provincia ho altri 5 euro. 3 anni fa al comune altri 5 euro e mi chiedono altri 2 euro. Ma dove cazzo stanno questi soldi di rimborsi elettorali che dicono che servono solo per fare politica sul campo? Faccio un appello, chi deve andare a fare le primarie, se vi fanno, vi chiedono le 2 euro, girate i tacchi e andatevene. Io non ho i forconi, ma ho 3 matterelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. Volevo ricordare che lo stipendio ai nostri cari politici e alle forze dell'ordine lo paghiamo noi con le tasse. La signora dei 2 randelli che li mette a disposizione, uno lo vorrei io. L'abbiamo rispolverata la signora dei 2 Matterelli, non i randelli, i Matterelli, perché di Bologna fa la pasta e quindi la signora dei 2 Matterelli. Allora arriva il Redditest. Il Redditest, cioè, attenzione, non è un controllo stringente, è un test che tutti i cittadini possono fare per vedere se con i propri scontrini sono congrui con le spese e rischiano dunque eventualmente un accertamento fiscale. Cioè uno vuole fare una prova dal sito dell'Agenzia delle Entrate, da oggi pare c'è questa possibilità. Perché voi di Libero, De Manzoni, tuonate contro questa cosa? Tuoniamo. Allora, intanto non è proprio così innocuo il Redditest. Cioè, il Redditest è poi il parametro su cui si baseranno gli uomini dell'Agenzia delle Entrate per stimare veramente i nostri redditi. Sì. E tuoniamo per due motivi. Uno perché, anzi tre, uno perché assomiglia tanto agli studi di settore, cioè in base a alcuni parametri che, come tutti i parametri, possono essere intelligenti o stupidi a seconda, poi bisogna vedere nei dettagli, ti stimano un reddito. Cioè, siccome tu viaggi con un certo tipo di auto, non puoi guadagnare meno di tot. In pazienza, se hai la passione per le auto e te li sei messi via centesimo per centesimo e vivi in una Stamberga pur di con quell'auto. Ma se uno mette insieme tutto, ha un'auto di lusso, ma vive in una Stamberga, sarà in equilibrio, il sistema. Ma stabilire che vivi in una Stamberga è un po' più complicato, perché poi si va a metri quadri lì, no? Si dice magari una Stamberga hai 40 metri quadri, però va bene, dipende come è fatta. Poi l'altra cosa che disturba è l'inversione dell'onere della prova, ed è i consigli che diamo oggi, appunto, di dover tenere tutti gli scontrini e persino anche le ricevute delle paghette dei figli per giustificare una serie. Insomma, vedete questa idea di polizia fiscale, no? Questo monte. Oggettivamente c'è. Infatti, nel fondo del direttore. Chiaramente esprimiamo la nostalgia, anzi l'invidia per quei paesi dove ti arriva a casa la cartella con cui è scritto quello che tu devi pagare. Non so, su questo vediamo se il nostro Piovolo Rane, Giglioli, che ne pensi, siamo in uno stato di polizia fiscale. Hai fatto molto bene, Alessandro, a introdurre questo tema. Questo è un bel tema che distingue destra e sinistra, cioè individualismo e non individualismo. È chiaro che tenere gli scontrini è una rottura di scatole. Esattamente come una rottura di scatole fare la raccolta differenziata, no? Era molto più comodo quando buttavamo tutto nello stesso secchione, però in una società complessa, in una società complicata, in una società in cui siamo in tanti, in cui viviamo tutti insieme e in cui le azioni di ciascuno di noi hanno un impatto sulla vita della collettività e sulla vita di tutti, ci siamo abituati a fare la raccolta differenziata. Sì. Allo stesso modo siamo in una società in cui ci sono circa 180 miliardi di evasione fiscale ogni anno. E vuol dire che poi se noi non ci adattiamo a queste... E 180 forse sono un po' troppi, sono 120, che sono comunque tantissimi. Beh, dipende dalle calcoli, comunque l'ultimo calcolo che ho letto io dice comunque siano 120 o siano 180, è abbastanza lo stesso, nel senso che potremmo pagare molte più pensioni, potremmo avere ospedali migliori, potremmo avere asili migliori, potremmo avere scuole pubbliche migliori. Potremmo fare tante cose con quei 120 miliardi e cominciare da uscire da questa recessione che ci ammazza. Sì, ma questo sì, ma è il metodo che è contestato, che si debba colpire l'evasione fiscale, su questo siamo tutti d'accordo. È il metodo contestato. Alessandro, in Brasile hanno fatto un sistema che consente, ad esempio, dei premi sugli scontrini. In altre parole, sì, anche a Singapore. Chi richiede lo scontrino si vede rimborsato una parte dell'IVA che lo Stato incassa attraverso quella transazione. È una rottura di scatole, però è un sistema che consente a tutti di pensare più alla collettività. È una rottura di scatole necessaria. Qui non lo imborsiamo, il problema è proprio quello. No, ma infatti si può fare di meglio. Io penso infatti che il futuro sia quello delle... Cioè, De Manzoni dice qui per ora bisogna tenerselo e basta, una gran rottura di balle, ecco, questo è... No, però giustamente Giglioli dice anche la fare la differenziata nella rottura di balle. Si vuole fare dei sacrifici in nome di una collettività, allora si faccia. Io però vi devo chiudere con questa notizia che vi porgo. Ieri c'era il presidente tedesco, il presidente Gauck, a Napoli. C'era un uomo della sua scorta, è stato fermato, girava questo uomo della scorta, è stato fermato pistola in faccia a Napoli. Prego, dia l'orologio. E questo si è sfilato il Rolex. E vabbè, qui tutto potrebbe... Il Rolex era falso! È falso! Il pacco dei tedeschi ai napoletani! Avete capito? Era falso! Già l'uomo della scorta che si fa puntare una pistola alla tempia, voglio dire... Il presidente tedesco si deve sentire, no? Molto, molto sicuro, confortato da questa scorta. Ma poi il tedesco gli ha rifilato Rolex falso al napoletano. Ma c'è tu... non è la prima sola che ci rifilano i tedeschi. No, infatti, ecco, con loro rigore, Giglioli, con loro rigore. Intanto i Rolex falsi ci rifilano, Brava Merkel, ha capito tutto come si fottono i napoletani, con i Rolex falsi, da Germania a Napoli. Una roba incredibile, il mondo veramente si è ribaltato.

ai napoletani. Il mondo proprio non si capisce più nulla, va sotto sopra. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, vogliamo raccontare quello che sta succedendo in Sicilia, che riguarda anche la nostra categoria, perché il presidente Rosario Crocetta, neopresidente appena insediato, ha scoperto che alla regione Sicilia ci sono 21 addetti stampa, 21 caporedattori, e ha detto io voglio mandarli via tutti, non mi serve. Poi c'è anche un rapporto di fiducia con i giornalisti, e poi 21, ma non sia mai. Alcuni di loro guadagnano fino, pare, 12.300 euro al mese. Ne vogliamo parlare con Alberto Cicero, che è il segretario regionale d'Asso Stampa Sicilia, il sindacato in Sicilia dei giornalisti. Buongiorno Cicero e benvenuto, eccoci qua. Allora, la questione intanto è questa: perché in la categoria in questo momento sta protestando? A me sembra una decisione saggia del presidente Crocetta. Si possono avere 21 addetti stampa alla regione? Beh, allora, un presidente che voglia risparmiare è assolutamente un presidente saggio. Un presidente che però voglia risparmiare tagliando posti di lavoro mi sembra un presidente meno accorto, un presidente che non rispetta i diritti dei lavoratori. Questo sì, però voglio dire, è definita la squadra dei record, cioè nessuno ha 21 addetti stampa come la regione Sicilia, anche in Campania ne hanno 9, in Piemonte ne hanno 8, forse si è sbagliato in passato. Sì, probabilmente si è sbagliato in passato, però questo dipende da una normativa ben precisa, cioè l'ufficio stampa della presidenza della regione siciliana ha una legislazione speciale che risale addirittura agli anni 70, cioè l'istituzione risale agli anni 70, 79 per l'esattezza, poi l'organico venne ampliato, poi fu data la qualifica di caporedattore. Nel 2004 l'organico venne portato a 24 unità, 24 persone. 24 addirittura, cioè più di adesso? Sì, l'organico completo è 24, ma non si arrivò mai. Ho capito, però Cicero, la questione è, siccome è uno statuto speciale della Regione Sicilia, come la Regione Sicilia è una regione a statuto speciale, ce lo dobbiamo tenere così? No, assolutamente no. Io dico che contestiamo intanto fortemente il metodo. Il metodo della decisione unilaterale, ecco, questo è quello che contestiamo fortemente e vivacemente, per quanto sia possibile fare, ovviamente. Ma che doveva fare il presidente Crocetta? Cioè incontrare, fare... Sì, cioè, credo che il principio della contrattazione sia un principio sociale, non vale soltanto in Sicilia o non vale soltanto nel resto d'Italia. Ma cosa avrebbe potuto proporre? Cioè, voglio dire, lui è arrivato e ha detto 21 sono troppi, 21 non me ne servono. Non è che poteva tagliarne metà, oppure poteva dire... Oppure sì. Ma intanto può fare una nuova legge. Intanto, la prima cosa, che il primo passaggio, quello più scontato, sarebbe quello di fare una nuova legge e ridurre l'organico dell'ufficio stampa. Sì. Oppure prendere i 21 che non sono stati assunti tutti in una volta, attenzione, i primi 4 negli anni 80. Poi altri 4 successivamente, gli ultimi 13, diciamo, nel periodo tra il 2004 sì, e il 2006. Tra l'altro, assunti tutti senza concorso, questo è vero? Sì, questo in base a questa normativa speciale. Poi la normativa speciale. Però i primi assunti negli anni 80 ci volevano dei requisiti particolari, venivano sottoposti a un vaglio delle commissioni dell'Assemblea regionale, quindi i primi vennero assunti con una procedura un po' più particolare. Però, un po' più attenta. Cicero, ce n'è uno tra l'altro che era l'ex portavoce di Lombardo, risulta anche dall'unità, Gregorio Arena, che è distaccato a Bruxelles, dove c'è una sede della regione Sicilia come di tante altre regioni, e prende, secondo quello che ha raccontato Crocetta, 12.300 euro al mese, perché c'è anche l'indennità per i funzionari all'estero. Cioè è una cosa sinceramente che in questo momento grida vendetta, ma no, che non... Ma noi siamo d'accordo, cioè non accettiamo il discorso dei privilegi comunque, sempre e comunque, assolutamente no. Cioè, un presidente che voglia risparmiare si siede, comincia a studiare la situazione e poi decide dove tagliare. Cioè, è impossibile pensare che si possa tagliare così sic et semplicis perché devo risparmiare. Cioè, è chiaro che oggi questa situazione di 21 caporedattori potrebbero essere 24, ripeto, per assurdo. Sì, per assurdo potrebbe essere anche di più. 24. Per assurdo, ecco, presidente che si rispetti, un presidente di sinistra, insomma, che rispetta il mondo del lavoro, i lavoratori, i diritti dei lavoratori, si siede e discute. Cioè, assolutamente, io il giornalista a Bruxelles non me lo posso permettere, benissimo, rientra. Io il giornalista nella sede romana non me lo posso permettere, benissimo, rientra. Cioè, quello che non volete è questo. Ieri Crocetta ha detto questo. Ho licenziato la moglie di un boss quando ero sindaco di Gela, di certo non mi lascio intimorire dalla casta dei giornalisti. Ha detto di peggio. Sì, abbiamo replicato in un comunicato, sono stato costretto, non volevo più tornare sulla questione perché mi sembra che Crocetta su questa questione faccia un po' di demagogia. In questo momento, come tutti sappiamo, ce l'hanno tutti con i giornalisti ed è facile dare addosso. In questo caso un po' ha ragione, però io devo dire da collega, un po' la figura della casta la facciamo, cioè in questo momento a difendere... Non posso accettare che il sindacato dei giornalisti venga paragonato al clan mafioso di Gela. Cioè, se lui fa il paragone che ha licenziato la moglie del boss mafioso di Gela, e non mi lascio intimidire, la frase esatta è questa, non mi lascio intimidire dai giornalisti che se ne vanno all'asso stampa. La sua stampa è un sindacato, dei giornalisti, dei lavoratori che si rivolgono al proprio sindacato possono essere mai paragonabili alla Adesso non voglio difendere, cioè non credo che aveva voluto fare il paragone, come dire, la sua stampa sono dei mafiosi, per carità, cioè, mi lascio intimorire da uno che mi dice non licenziate, visto che in passato ho licenziato anche una persona non vogliamo intimorire nessuno, un lavoratore non vuole intimorire nessuno quando vuole salvare il proprio posto di lavoro. Certo, anche discutendo le condizioni. Sì, anche perché il rischio un pochino però c'è di passare. Io l'ho twittato qualche giorno fa, sembra un po' casta stampata, che riprendendo anche il titolo di un libro, perché effettivamente la cuccagna è finita, se è finita deve finire per tutti, o no, anche per noi, Cicero, o sbaglio? Assolutamente sì, ma il problema è il metodo, ripeto, può finire, deve finire se ci sono privilegi, per carità, sprechi, assolutamente. Io credo che il principio della contrattazione, della concertazione vada al di sopra di ogni cosa, credo fermamente in questo, se no non farei sindacato, se no sarebbe inutile il ruolo del sindacato. È il principio della contrattazione, ho bisogno di risparmiare, benissimo, sindacati, giornalisti in genere. Sediamoci e discutiamo. Tra l'altro oggi anche Massimo Gramellini, dedica il suo buongiorno sulla prima pagina della stampa proprio questo, stampa statuto speciale, e scrive Gramellini: alla Regione Sicilia ciascuno è caporedattore di se stesso, cioè semanticamente il caporedattore cos'è? È un capo che ha sotto dei redattori, voglio dire, come dice la parola stessa, mentre la Regione Sicilia sono tutti caporedattori, caporedattori di se stessi, una bella responsabilità che Crocetta però ritiene di poter affidare a un numero più ridotto di persone. E il problema, scrive Gramellini, è proprio questa regione a statuto speciale che si riverbera anche nella possibilità di assumere fino a 24 all'ufficio stampa. È un po' una follia. Diciamo che non lavoravano però tutti insieme, cioè allora tre sono distaccati a Bruxelles, Roma e Catania. E appunto uno che costa di più, quello a Bruxelles. Però credo che il costo indicato di 12.000 euro sia il costo industriale, cioè non certo la busta paga. Non lo so, spero per lui di sì, ma voglio sperare per noi di no. Ecco. Per carità. Altri 13 sono dislocati in altrettanti assessorati regionali. Ecco, cioè non sono 21 che lavorano tutti fianco a fianco, perché quella sarebbe la redazione del Corriere della Sera, lì avrebbe ragione Crocetta. Ma Crocetta è un po' superficiale in questo. Sì, Crocetta ha detto con questi giornalisti si può fare il Corriere della Sera, ha detto. Lì ha esagerato, ce ne sono molti di più al Corriere della Sera. Appunto, ecco perché fa facile demagogia, e anche questo è inaccettabile. Io sono pronto a sedermi di fronte a Crocetta assolutamente con il tavolo sgombro da pregiudizi e da qualsiasi cosa, ma vorrei che lo pensi anche lui. Cicero, onestamente, quante persone servirebbero alla Regione Sicilia, al di là di statuti speciali, quanti all'ufficio stampa servirebbero per far funzionare una regione? Perché ce n'erano la metà a Palazzo Chigi col governo Berlusconi, la metà per un governo. Alla Regione Sicilia quanti ne basterebbero di giornalisti? Ma è difficile dirlo, devo dire, se dobbiamo considerare che un giornalista lavora in ogni assessorato, allora per come sono ripartiti ne servirebbero almeno uno per ogni assessorato in questo momento, probabilmente con una redistribuzione dei carichi di lavoro, con 100.000 accorgimenti che in qualunque azienda si fanno, cioè non si fa sì che si semplice con un colpo di penna taglio posti di lavoro, si può redistribuire il lavoro, si può riorganizzare e sicuramente si può arrivare a una riduzione, però fermo restando... che si tratta sempre di una legge, della regione. Ho capito, però le cose, cioè, hanno cambiato le pensioni in nottetempo, voglio dire, dal contributivo, dal retributivo al contributivo. Assolutamente d'accordo, cioè cambiamo la legge subito, ma sediamoci e discutiamo. Un'ultima cosa, avete fatto un comunicato, credo, la federazione, a dire, perché Crocetta ha detto, e poi scusi, io mi devo tenere i portavoce del passato, quelli diciamo vicini e nominati da altri politici, no? Posso immaginare. Altra demagogia. Ecco, voi avete fatto un comunicato a dire il ruolo di portavoce, in realtà i portavoce sono atarassici interpreti del pensiero del capo dell'amministrazione, cioè imperturbabile, la tarassia, no? Proprio quella cosa. Allora, la legge 150, come si sa, prevede tre figure, intanto quella per i giornalisti, quella dell'ufficio stampa, sì, il portavoce, e poi l'URP, cioè l'ufficio per le relazioni col pubblico. Sì. In Sicilia anche il portavoce è il giornalista, ma questo è soltanto un dettaglio. Allora, Crocetta scambia i portavoce per i giornalisti, quelli sono giornalisti, hanno lavorato per l'ufficio stampa della presidenza della regione, non hanno lavorato per Raffaele Lombardo, hanno lavorato per l'ufficio stampa. Cioè il portavoce è atarassico, nel senso, se c'è Crocetta, se c'è Crocetta sta con Crocetta, se c'è Lombardo sta con Lombardo, se c'è Cuffaro sta con Cuffaro. Scambiandoli con portavoce, fa un errore davvero grossolano, perché certo, se fossero portavoce, allora io mi prendi i miei portavoce, quelli che meglio interpretano il mio pensiero. Però Cicero, io non so come andrà a finire, devo dire che quello che appare, vedo anche i messaggi che ci arrivano, quello che appare all'esterno, detto da collega, è proprio una difesa di casta che per molti è un po' insopportabile. Sì, può sembrare dall'esterno, può sembrare questo, me ne rendo conto, però il problema è che in Sicilia abbiamo una normativa, al di là di questa dell'ufficio stampa della presidenza, cioè non riusciamo ad applicare la legge 150 nazionale dello Stato italiano, perché gli enti locali si rifiutano e noi cerchiamo di pressarli. La legge 150 qual è? Spieghiamola agli ascoltatori. La stampa sulla trasparenza della pubblica amministrazione, quella che ritiene i giornalisti non dei giornalisti e basta, ma degli strumenti indispensabili per la trasparenza dell'attività. Ma 21, sì, indispensabili, sì, il problema è il numero. No, io parlo degli enti locali, qui in Sicilia quasi nessun comune ha l'ufficio stampa, cioè perché lo ritengono assolutamente un elemento del tutto secondario. Ma forse forse vanno bene o male, dipende dall'ufficio stampa, forse. No, probabilmente. Cioè, forse va bene così, non per carità. No, probabilmente è un retropensiero speculare a quello che fa Crocetta con i portavoce. Cioè, Crocetta ritiene che i giornalisti siano portavoce e non lo sono. Negli enti locali, i sindaci, i presidenti delle province ritengono che i giornalisti siano pure dei portavoce. Allora, se scelgono loro per 6 mesi, per un anno, li buttano via. Vabbè, ma come finisce questa storia? Cioè, è finita? Nel senso, Crocetta può cacciare tutti o ridurli oppure no? Io non credo che da un punto di vista legislativo possa cacciarli tutti, perché soprattutto i primi assunti negli anni '80 hanno delle difese e delle garanzie ancora maggiori. Cioè, è chiaro che io non voglio arrivare allo scontro, non voglio arrivare al braccio di ferro, però si vedrà. Lui insiste in questa posizione io ritengo comunque che un presidente neoeletto e di sinistra per giunta non possa rifiutarsi di discutere. Il comitato di redazione dei 21 colleghi già da 10 giorni gli ha mandato una richiesta di incontro, disponibilissimo il comitato di redazione per conto dei colleghi, disponibilissimo a trattare. Crocetta per il momento dice non mi faccio intimidire. Cicero, facciamo così, noi ci dobbiamo fermare che c'è la pubblicità, alla prossima puntata, tanto richiamiamo, vediamo un po' come ne saranno sicuramente. Grazie molte. Grazie per essere stato con noi, Alberto Cicero, il segretario regionale dell'Asso Stampa Sicilia, vale a dire il sindacato in Sicilia dei giornalisti, per questa diatriba con Crocetta. Ci fermiamo, parliamo di Medio Oriente. Allora, ci sarà una tregua dopo i tanti missili piovuti su Israele, dopo i 100 morti e oltre la striscia di Gaza in Medio Oriente? 800 24 00 24. Anche voi, cari ascoltatori, come l'avete capita questa vicenda? Cosa pensate che stia succedendo tra Israele e la striscia di Gaza? Eccoci allora alle 8:36 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta e spiegarci voi come avete percepito, come percepite e capite quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove è stata ancora una notte di bombardamenti di alcuni obiettivi nella striscia di Gaza. Questa mattina invece sono stati lanciati dei missili sia su Ashkelon in Israele, dunque, sia su Beersheva, dove è stato colpito un autobus e per miracolo, insomma, erano appena evacuati le persone dell'autobus e dunque si è sfiorata la tragedia. Noi siamo in collegamento, so che può rimanere con noi non molti minuti, con l'ambasciatore Avi Patzner, che è stato ambasciatore israeliano in Italia, oggi è portavoce del governo israeliano. Buongiorno, ambasciatore. Ambasciatore Patzner? Sta al telefono, ci ha detto che ha avuto una riunione urgente. Intanto saluto Michele Giorgio, che è l'inviato del Manifesto all'interno della Striscia di Gaza. Michele, buongiorno, dove ti trovi tu? A Gaza. Buongiorno a voi. A Gaza City. Gaza City in questo momento. Com'è la situazione dal punto di vista, perché si parla di attacchi ancora nella notte, quando ti dico che il sito di Arez, che è il giornale israeliano uno dei più diffusi, parla di una possibile imminente tregua sulla quale stanno mediando gli egiziani, e con l'arrivo anche a sorpresa di Hillary Clinton, vale a dire segretario di Stato americano. Michele. Ma ovviamente continuano a circolare le voci di una possibile tregua. Quello che si sa è che questa notte alle 2 ore italiana si è conclusa una riunione molto importante del gabinetto di sicurezza israeliano, presieduto dal premier Netanyahu ovviamente, dove è stato deciso di dare qualche ora in più, probabilmente 24 ore di tempo, alla diplomazia e in particolare alla mediazione egiziana, per cercare di trovare una via d'uscita a questo conflitto. È anche vero però che le due parti, cioè Israele e il movimento islamico Hamas, continuano a rimanere molto lontani. Hamas ha respinto le condizioni poste da Israele, altrettanto ha fatto Israele con le condizioni poste da Hamas. Trovare una soluzione di compromesso non sarà facile, e su tutto questo incombe la possibile, probabile offensiva di terra delle forze armate israeliane, che preme già ai confini di Gaza da qualche giorno, dove si stanno ammassando mezzi corazzati e truppe. Secondo alcuni addirittura delle unità speciali israeliane sarebbero già dentro la striscia per preparare la strada a questa offensiva. Però appunto si tenta ancora la strada diplomatica, qui si attende una delegazione della Lega Araba, dovrebbe venire anche il ministro degli esteri turco Davutoglu, si sa di altre iniziative, c'è nella regione anche Ban Ki-moon che cercherà di dare il suo contributo, altri contributi li avete illustrati voi dallo studio. Però no, certo, che la situazione è questa, cioè è chiaro che purtroppo c'è il rischio intanto che la situazione degeneri da qualsiasi momento, però c'è anche vero che c'è uno spiraglio di una possibile tregua sulla quale stanno mediando gli egiziani. Insieme a Michele Giorgio, che è appunto all'interno della Striscia di Gaza, inviato del quotidiano Manifesto, detto che l'ambasciatore Avi Patzner, appunto avete sentito, ci ha dovuto lasciare, è stata una riunione improvvisa, forse tra 10 minuti riusciamo in chiusura di trasmissione ad avere una sua battuta. Però voglio salutare invece, e mi sposto a Tel Aviv, Rebecca Treves. Buongiorno. Sì, buongiorno. Rebecca Treves è una blogger, è una giornalista, lavora anche al Centro per la Pace Shimon Peres. E, Rebecca, ha sentito che anche questa mattina, so, dal fronte israeliano vi siete svegliati e, per esempio, soprattutto nel sud, a Beersheva, nel Negev, è piovuto un razzo che ha colpito un autobus. Come vivete voi questi giorni di escalation, si usa questa parola, di scontri da un fronte all'altro? Sì, allora oggi Tel Aviv è più tranquillo perché ieri è stata una giornata tranquilla, non ci sono stati allarmi, non ci sono stati missili, quindi diciamo che da 24 ore la città è più silenziosa, la vita ha ripreso praticamente normalmente. Sicuramente rimane una ferita e rimane veramente la nausea della guerra che si respira ovunque, dall'autobus ai ristoranti, alle case, e questo sia per ovviamente le morti a Gaza, i civili, i bambini, sia per l'attesa estenuante dei soldati che fanno parte, ovviamente tutti hanno amici o parenti che sono a Gaza, sono nelle basi, stipati, eccetera, eccetera. Ecco, chiedo questo, Rebecca, dal punto di vista israeliano, che effetto fanno vedere quelle immagini a Gaza, dove ci sono oltre 100 morti, e le accuse dei palestinesi è gli israeliani bombardano indiscriminatamente e uccidono anche i bambini. Dal punto di vista suo israeliano, come la percepisce? Dal punto di vista mio, 100 morti sono sicuramente una ferita, è una tragedia umanitaria indescrivibile, e le morti non si paragonano, soprattutto quando sono bambini, che non c'entrano, non dovrebbero centrare con nessun conflitto. Detto ciò, ci sarebbero stati probabilmente lo stesso numero di morti civili in Israele, soprattutto se guardiamo la bomba che è stata lanciata ieri su una scuola, che è stata intercettata solo ed esclusivamente grazie alla cupola una volta e grazie all'evacuazione di una scuola dall'altra parte. Quindi una scuola sarebbe stata distrutta, semplicemente in Israele si è prevenuto diciamo il conflitto quando c'era il rischio di. Detto ciò, non è una scusa e non è rimane una ferita aperta per tutti. Sicuramente non è nell'intenzione dell'esercito beccare e colpire scuole e case e luoghi dove ci sono abitanti e civili. Questo sì, questo no, questo senza dubbio. La situazione a Gaza è che Hamas non protegge i propri civili e anzi cerca di nascondere, come abbiamo letto e come ci informano, i depositi delle armi sotto abitazioni civili. Questo ecco, questo è un punto, è un punto importante. È un punto importante sul quale, sul quale l'esercito israeliano punta molto, e su questo vorrei da Michele Giorgio un commento. Cioè l'esercito israeliano dice: noi colpiamo obiettivi militari. Il problema è che Hamas, che è un'organizzazione terroristica che ha come suo proposito quella proprio dell'eliminazione dello Stato ebraico, si difende e si nasconde all'interno di strutture anche civili. Da qui la domanda: che si deve fare se lanciano, per esempio, facciamo un esempio concreto, un razzo dal tetto di un ospedale? Che deve fare Israele? Deve colpire oppure pensare che lì c'è un ospedale? Michele, questa è la domanda sulla quale poi si discute molto, no? Di come vengono poi poste le questioni, vengono uccisi i civili a Gaza. Beh, ovviamente queste sono le affermazioni dell'esercito israeliano e noi come giornalisti possiamo soltanto registrarle. Io quello che ho avuto modo di vedere qui a Gaza, ovviamente non posso, non ho gli occhi dappertutto, non posso guardare negli scantinati delle case. Quello che vedo però è che ci sono stati molti edifici civili che sono stati colpiti. Nei primi giorni dell'offensiva aerea erano stati colpiti soprattutto edifici governativi, basi militari, postazioni della polizia o della milizia di Hamas, le brigate di Zin al-Qassam. Negli ultimi giorni, e i palestinesi denunciano con forza questo, vengono prese di mira anche le case, perché stando a quello che si è letto anche dai comunicati del portavoce militare israeliano, l'aviazione sta cercando di prendere di mira le abitazioni, le case dove si troverebbero leader soprattutto dell'area militare di Hamas. Ma di fatto comunque che queste bombe non distinguono sempre, diciamo così, chi sono i leader e chi sono i civili. E in realtà abbiamo un bilancio di 111 morti questa mattina, dove le organizzazioni internazionali danno un bilancio di un 50% di vittime civili, tra queste anche molti bambini. Però l'esercito israeliano si difende dicendo: che dobbiamo fare? Aspettiamo che i missili piovano su Ashkelon, piovano su Beersheba, piovano come è successo, partiti anche gli allarmi a Tel Aviv o addirittura quasi fino alla periferia di Gerusalemme? Rispetto a ciò che Israele deve fare o non deve fare, questa è una decisione che deve prendere il primo ministro israeliano Netanyahu, non spetta a me giudicare cosa vada fatto. Io quello che so è che naturalmente prima di colpire un ospedale bisognerebbe avere la prova che da lì su siano stati lanciati dei razzi, e tutto quello poi tra l'altro imporrebbe una riflessione in ogni caso, perché si tratta comunque di un ospedale. Quindi ci troviamo di fronte al solito dilemma di tutti questi anni. È il solito dilemma che poi purtroppo in le zone densamente popolate, soprattutto la striscia di Gaza, quando si colpisce è inevitabile, nel momento in cui uno fa la scelta di colpire è inevitabile anche che possano morire dei civili. Vorrei sentire Davide da Vicenza, ci ha chiamato. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Milan. Che ha da dire? E a tutti i suoi gentili ospiti e ascoltatori. Guarda, io le parlo da persona che ha seguito questa vicenda e quelle vicende israelo-palestinesi da tanti anni. Io ho mia madre che era siriana, per cui conosco la storia da quando ero ragazzino. Io le posso dire, guardi, fino a metà degli anni Ottanta, dopo la guerra dei sei giorni, fino a metà degli anni Ottanta, Israele era sicuramente in una posizione di assoluta difendibilità e ragionevolezza. Era un paese sotto attacco pesante, ha subito perdite, era in una situazione sicuramente comprensibile. Dopodiché è iniziato un lento scivolamento in una situazione che oggi diventa, a mio giudizio, indifendibile. comprensibile e incomprensibile. Perché? Ma io non è sotto attacco oggi Israele? Ma io vorrei parlare di numeri a questo punto, perché sa, se ci mettiamo a disquisire su queste cose, non... Sì, ognuno ha le sue ragioni, ed è anche il motivo per cui probabilmente non si trova un punto di accordo. Però i numeri parlano in maniera impietosa, cioè non si può parlare di guerra. Cioè in pochi giorni di scontri parliamo di oltre 100 morti, larga parte civili. Ma guardi, contro male, guardi, sì, no, ma infatti, ma io mettere 100, e capisce Davide che mettere 100 a 20, che dove ci porta questo discorso? Cioè dire, siccome sono 100 a 20 o 113 a 20, allora è chiaro che, non lo so, Davide, lei la vuole porre su questi numeri? Le voglio dire, probabilmente il governo israeliano dovrebbe tenere posizioni più ragionevoli. Ma cosa vuol dire? Mi spieghi tecnicamente, si ponga in un cittadino di Ashkelon che sta andando a scuola e rischia di arrivare un missile. Cosa dovrebbe fare? Cosa vorrebbe chiedere al suo governo? Il suo governo dovrebbe chiedere la possibilità di trovare degli accordi con il suo vicino a meno di 100 chilometri. Sì. Perché questo che però le minime condizioni di vita. Che però normale. Lei sa che il suo vicino Hamas ha come volontà quella di cancellare lo Stato ebraico. Guardi, che tipo di accordi uno può fare con una persona? La volontà di cancellare lo Stato ebraico nasce nel momento in cui uno ha la forza di poter attingere a una manovalanza di guerriglieri. Sì, sì. Che ha visto morire i propri genitori, che ha visto morire i propri fratelli. E vabbè, fratelli. Capito, ma vede che allora, però così si... Allora, o si spezza questo circolo di sangue, si spezza, e si può spezzare solamente se da entrambe le parti vi è la volontà di arrivare... Sì. Cioè, uno il primo passo lo deve fare. Allora Davide, no, si fermi qui, ha detto delle cose interessanti. Siccome è con noi l'ambasciatore Avi Pazner, che saluto, buongiorno ambasciatore, abbiamo ci sente? Sì, la eccoci sento. Qua ambasciatore, so che ha avuto una riunione urgente legata immagino a quello che sta succedendo. La sta ascoltando anche Michele Giorgio, che è l'inviato del manifesto nella striscia di Gaza. L'ultimo ascoltatore ha detto ci vorrebbe qualcuno che fa il primo passo, cioè se è tutta una questione di arriva il missile e noi facciamo la rappresaglia, così non se ne esce più. La posizione del governo israeliano qual è? Se noi proviamo adesso di vedere se è possibile un cessato il fuoco, ci sono dei negoziati intensivi fra noi, gli americani, gli egiziani, e ad un altro lato ci sono dei contatti fra gli egiziani e lo Hamas, e il nostro gabinetto si è riunito questa notte. E ancora non ci sono ancora le condizioni per un cessato il fuoco. Quali sarebbero queste condizioni? Cioè cosa chiedete voi? Un ritorno completo alla sicurezza e tranquillità, però non per una o due settimane, però per un periodo indeterminato. È lungo. Le chiedo questo, scusi ambasciatore, non lo abbiamo potuto fare prima purtroppo, e abbiamo dovere vivere in sicurezza sull'attacco dei missili. Però le chiedo questo, ambasciatore, sia Michele Giorgio prima diceva che sono già 113, credo, i morti della striscia di Gaza. L'ascoltatore poco fa ha detto, mettiamola in questione di numeri, in Israele sono morte alcune persone per questi missili lanciati, ma a Gaza 100 e rotti. Perché questa sproporzione? Perché l'accusa dire si colpiscono anche obiettivi civili e quindi militari, ma muoiono anche i civili. Voi cosa rispondete? Nessun obiettivi civili, e noi lamentiamo molto la perdita di vite umane e civili, che siano palestinese o israeliane. Noi dobbiamo fare tutto per difendere il nostro paese. Non so se lei sa che per mesi e mesi e mesi milioni di israeliani hanno dovuto vivere in rifugi perché sono stati attaccati da parte di Gaza senza nessuna provocazione da parte nostra. Abbiamo dovuto prendere una decisione di fermare i spari su di noi e ciò per difendersi. Noi allora, attacchiamo soltanto obiettivi militari. Obiettivi militari. Molto se ci sono anche delle casualtà. Allora, siccome ci sono due minuti, Michele Giorgio, vuoi fare una brevissima domanda all'ambasciatore che non devo sforare? Michele, dalla striscia di Gaza, vuoi fare una domanda all'ambasciatore israeliano Avi Pazner? La domanda da giornalista è questa: da parte del movimento islamico Hamas, lo abbiamo ascoltato ieri, lo hanno dichiarato i leader di questo movimento. Non la sento. Anche... Adesso gliela riassumo io, sia breve. Sì. Sì, allora sì. È questo, si chiede, naturalmente Israele vuole una soluzione a lungo termine, ma la chiedono anche i palestinesi e ad esempio chiedono che non vengano più compiuti attacchi mirati, cioè assassini mirati. Perfetto, come allora ambasciatore, come Hamas, come voi chiedete ad Hamas una tregua lunga, anche Hamas chiede una tregua lunga e che non vengano colpiti, non ci siano gli assassini mirati da parte di Israele. No, no, non voglio entrare nei dettagli del negoziato fra noi, Egitto, l'Egitto e il Hamas, e a noi piacerebbe una situazione che non ci spara più né di Gaza e che non dobbiamo sparare a Gaza, non solamente per lungo, però per sempre. Però voi, cioè questi assassini mirati, è una politica che in linea di massima Israele si mantiene nella possibilità di poter fare anche in futuro? Se noi non possiamo arrivare a una soluzione che dà sicurezza al nostro popolo, dovremmo pensare come farlo, perché lei sa che il primo dovere di ogni governo è di assicurare la sicurezza della popolazione. Questo è il dovere di ogni governo. Se immagini che sarebbe stata la situazione in Italia, se in Italia piovesse dei missili a Milano e a Roma. È chiarissimo, ha risposto in questo modo, è chiarissimo, le politiche continueranno. Ci fermiamo qui, ringrazio tutti e ci troviamo domattina alle 6:30.